Benvenuti alla 23esima nonché ultima puntata di Cialtroni nello spazio per questa stagione. Un saluto da Francesco, da Marco e da Alessandro. Oggi addirittura siamo in diretta, quindi è possibile telefonarci, visto che anche che è l'ultima puntata. Se volete dirci che cosa avete imparato da noi, potete insultarci, potete fare qualsiasi cosa. Il numero di telefono è 030 45 670. E sappiamo, noi siamo certi, che qualcuno ha imparato qualcosa, perché abbiamo notizie e ricevuto email di gente che ci ha detto che per esempio ha installato Tor, per esempio ha aggiornato le sue ultime versioni dopo aver saputo della pericolosità di alcune cose. Insomma, se volete dircelo, il nostro numero è 030 45 670. Ma adesso noi partiamo con la trasmissione, anche in attesa delle vostre telefonate, che dicevamo sarà l'ultima dell'anno, e non poteva che concludersi il giorno in cui al Parlamento Europeo voteranno i brevetti software, che sarà anche uno degli argomenti che tratteremo quest'oggi, nonostante il tempo che gli abbiamo dedicato in passato. Dopodiché, Alessandro, dove andiamo? Gli ha rubato la scaletta. Mi ha rubato la scaletta, ma me la ricordo. No, ma parliamo un po' di news. Ma c'è qualche news sulle amministrazioni che hanno deciso di passare o non passare a Linux come desktop. Poi parleremo di una falla di Internet Explorer nuova e molto pericolosa e non corretta. Presenteremo un software per la costruzione di pagine web, per disegnare pagine web, che si chiama EnView, che è sempre dalla famiglia di Mozilla. E come gruppo invece ci ascoltiamo un gruppo funk che suona molto bene, e ve lo presento dopo, però, perché Zamp non vuole che parta subito con la musica. No, infatti direi che partiremo con i brevetti software. Ne abbiamo parlato anche ieri fuori dal contesto di Cialtroni nello spazio. Oggi è arrivata finalmente al Parlamento Europeo la direttiva. Oggi si vota sugli emendamenti. Ricordiamo che è necessaria non la maggioranza dei presenti in aula, ma la maggioranza degli aventi diritto al voto. Quindi quanti voti, Alessandro? Domanda. 367 voti. Pazzesco, lo sapeva davvero. Lo sapevo anch'io. Lo sapevi anche tu, vabbè. Ma più che altro questi voti servono per gli emendamenti, perché altrimenti non viene votata la legge in quanto tale, quindi non viene votata per passare, ma la legge passerà e vengono votati solo gli emendamenti alla legge. Quindi, a meno che questi emendamenti che la modificano fortemente vengano votati, insomma, i brevetti diventeranno realtà in Europa. Ecco, il momento in cui stiamo andando in onda, le 13:34 minuti di mercoledì 6 luglio 2005, non c'è stato ancora il voto e non arrivano nemmeno troppe notizie dal Parlamento Europeo. Quello che possiamo fare è ricordare un po' anche quello che ci hanno descritto alcuni parlamentari europei, come per esempio Vittorio Agnoletto, che abbiamo sentito ieri, che ci ha raccontato dell'azione di pressione, di lobby che sta avvenendo da parte delle multinazionali. Vittorio Agnoletto ieri ci ha raccontato che ad esempio la sua cassetta di email è stata riempita di email, appunto, di multinazionali dell'informatica, che gli chiedevano appunto di votare contro tutti gli emendamenti. La sua cassetta reale idem, è arrivata addirittura agli europarlamentari le guide al voto, il santino di voto, che ricorda un po' la DC, ricorda un po', sì, insomma, questa brutta cosa. E ieri proprio durante la discussione c'era addirittura una manifestazione di lobby della multinazionale dell'informatica, soprattutto statunitense, c'è da dire, che appunto asserragliavano il Parlamento Europeo. E giustamente noi ricordiamo che cosa succederà, Marco, se dovesse passare questa direttiva e se non dovessero esserci passare gli emendamenti, ecco, quindi contro la direttiva. Beh, si va verso una situazione alla americana, dove la liberalizzazione praticamente i brevetti software diventano una realtà, e quindi già tutti i brevetti software registrati in Europa diventeranno validi. Ci sono un sacco di brevetti software registrati in Europa dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, che sono già registrati, che entreranno quindi in funzione, diventeranno validi appunto se questa direttiva passa, che coprono una serie di di cose che sembrerebbero comiche, ma in realtà cioè, non c'è veramente un cazzo da ridere in questa situazione, perché quando ci si trova brevettati il doppio click o il trascinare l'icona o la visualizzazione a tab di una cosa o la GIF animata o la possibilità di comprare con una carta di credito online o la possibilità di, vabbè, un sacco di far sentire della musica via internet, è veramente una situazione delirante che andrà a colpire clamorosamente tutte le piccole e medie imprese che hanno il loro sitino web e magari possono vendere attraverso internet qualcosa. A quel punto verranno tassati e vessati dai detentori dei brevetti, che sono nel 70% dei casi delle aziende statunitensi. Avevamo già fatto qualche esempio le settimane passate. La notizia di questa settimana, per esempio, che Amazon, è un famosissimo sito che vende libri online, penso sia stato il primo, ha brevettato presso l'ufficio brevetti, che non mi veniva, americano, no, vedevo se aveva un nome particolare, comunque presso l'ufficio brevetti ha brevettato l'analisi dello storico degli utenti, ovvero quella cosa che vi fa vedere mentre navigate un sito le varie parti che avete già visto, quindi non so se andate a vedere il tal libro piuttosto che quell'altro, e tutti gli elementi che poi ne vengono ricavati, quindi i consigli nel caso di Amazon è ancora più particolare, perché per esempio quando voi andate a vedere un libro vi fa vedere che cosa hanno scelto altri utenti che hanno scelto anche quel libro, quindi per esempio se qualcuno compra un libro sulle protesi dentarie, qualcun altro magari ha comprato altri libri di medicina dentistica e vi fa comparire in una finestrella altri libri simili, insomma. È indubbiamente uno strumento utile per il sito, nel senso che è comodo, però che insomma che Amazon si arroghi la proprietà di questa invenzione è abbastanza discutibile, perché è un'invenzione prima di tutto abbastanza intuitiva e non difficile dimostrare che l'abbia implementata per prima Amazon. Lei c'è riuscita presso l'ufficio brevetti americano, di conseguenza se passano la legge sui brevetti in Europa, Anche in Europa varrà questo brevetto, e quindi tutti i siti che faranno uno storico di questo tipo dovranno pagare le royalties ad Amazon. E quindi speriamo che non passi questa direttiva che stanno votando oggi al Parlamento Europeo. Ricordiamo, vabbè, tra l'altro, un attimo, appunto, questa direttiva non ha assolutamente la maggioranza, ma è una serie di manovre rocambolesche di persone che alla fine sono quasi, si vede chiaramente la mano guida dietro delle multinazionali del software americano, che sono riuscite con delle gabole, ignorando la maggioranza del Parlamento che chiedeva di ripartire col procedimento sulla direttiva, questa direttiva sui brevetti software, e con dei colpi di mano incredibili sono riuscite ad arrivare a oggi, dove ci sarà... Una delle prime richieste era stata appunto quella di votarla come legge normale, non di farla passare nella commissione caccia e pesca, esatto. Passiamo avanti, parliamo adesso di una falla, l'ennesima, non saprei nemmeno dire quante sono state scoperte nel corso degli anni e penso che nessuno ne abbia potuto tenere il conto, una nuova falla per Internet Explorer. In questo caso non esiste ancora una soluzione se non quella di non usare Internet Explorer. Di cosa si tratta, Alessandro? Beh, allora, senza entrare nei dettagli tecnici, allora, questa falla permette a chi disegna una pagina web di costruirla in maniera tale da prendere il controllo della vostra macchina, punto. Quindi dopodiché può fare qualunque cosa, prelevare le vostre informazioni, cancellarla, insomma tutto quello che volete. Allora, ovviamente come tutte gli exploit, come si chiamano in gergo, comunque come tutte le exploit. Come tutte le falle trovate nei sistemi Microsoft, ha avuto una storia rocambolesca, nel senso che, o comunque poco chiara, nel senso, la SEC Consult, che è la ditta che fa consulenze di sicurezza, che ha trovato questa falla, l'ha trovata il 17 di giugno di quest'anno e l'ha prontamente comunicato a Microsoft con tanto di descrizione dell'errore, prima di pubblicarlo, diciamo, in internet o alla comunità. Il 29 di giugno Microsoft ha risposto che non era vero, che non c'era questo compromesso di sicurezza e che quindi per lei andava tutto bene. la SecConsult quindi ha deciso di rendere pubblica la vulnerabilità il giorno stesso, quindi il 29, e pensando che comunque di fare un servizio alla comunità, e il giorno successivo Microsoft ha fatto il proprio pubblicato, il proprio advisory, cioè il proprio avviso di vulnerabilità, quindi alla fine il 30 di giugno ha riconosciuto anche lei questa vulnerabilità. A tutt'oggi però non esiste una correzione di questa vulnerabilità. Esatto, vabbè, questo non è forse la cosa più grave, nel senso che quando si parla di software bisogna sempre mettere in conto che ci possa essere una vulnerabilità non ancora corretta. Era successo questa primavera per Firefox, nel senso è normale, in quel periodo di vulnerabilità bisogna premunirsi, non so, stare un po' più attenti. Microsoft consiglia di alzare il livello di sicurezza personalizzato e metterlo ad alto all'interno di Internet Explorer, il che rende moltissimi siti non navigabili, però piuttosto che compromettere tutta la macchina, soprattutto per quelli che lo usano a livello professionale, quindi per lavoro, e che hanno sulla macchina dati importanti, insomma, un attimino di attenzione. No, quello che fa specie è sempre il comportamento di Microsoft nei riguardi dei buchi di sicurezza dei propri sistemi, nel senso che la differenza con il comportamento di Firefox, quando è stato reso pubblico nel momento stesso in cui la comunità che gestisce appunto Firefox ne è venuta a conoscenza, è stato reso pubblico insomma la vulnerabilità e tutti erano in grado di prendere le loro contromisure. Microsoft ha tentato ancora di nascondere la cosa, di tenerla segreta per una decina di giorni, poi di fronte all'evidenza dei fatti non ha potuto far altro che ammettere la cosa e quindi dichiarare di non essere in grado al momento di risolvere il problema. Beh, alla fine i giorni sono una ventina, perché la Microsoft è stato comunicato al 17 fino cui... al 30 sono 13 giorni, sì, per cui questi non hanno fatto assolutamente niente. Sì, però se la SecConsult alla fine non avesse deciso di renderlo pubblico, a questo punto non nessuno lo saprebbe ancora. E vediamo un attimino il gruppo musicale, così facciamo uno stacco. Allora, il gruppo si chiama Natural Born Killaz. Killaz. Killaz. Killaz. Morite tutte e due. Allora, Alessandro ha una grande pronuncia inglese. Esatto. Allora, il sito è nbc.tech4u.net. Tech for you. Sì, che così tutti lo scrivono Tech for you. L'ho trovato anche attraverso il solito motore di ricerca music.anula.org. Il gruppo fa funk, è piuttosto carino il brano. Sul sito trovate sia le canzoni che le cover, e ci andiamo ad ascoltare la seconda traccia. Nature, burn, chill, let's live the nature. ora in collegamento con il senatore Fiorello Cortiana dei Verdi, che si è tanto battuto per la campagna contro i brevetti, proprio per dire anche insomma la novità, è che, ovvero che è stata bocciata la direttiva sui brevetti. Senatore, buongiorno. Buongiorno a voi, sto festeggiando, chiaramente è un risultato enorme, frutto di una nuova realtà che si sta riconoscendo come blocco sociale, quindi piccole e medie imprese, professionisti, smanettoni, comunità del digitale, reti civiche, università, amministrazioni locali, in certi casi anche governi e parlamenti. Noi discuteremo la nostra mozione domattina, che a questo punto è sulla gestione del dopo. Credo che il risultato sia stato enorme. Oggi bisogna avere la lucidità di capire che se noi non utilizziamo questa rete, questa consapevolezza da blocco sociale innovativo che si è messo in moto per una proposta di direttiva che il Parlamento europeo ai due terzi può avanzare obbligando la Commissione europea a istruirla, relativa al pluralismo informatico, agli standard aperti, alla possibilità dei formati aperti, all'interoperabilità, noi dobbiamo avere la lucidità di sapere che dopo che abbiamo festeggiato e strappato, prima o poi tira fuori di nuovo un'altra direttiva porcata, visto che non è stato mai tenuto in conto l'espressione del Parlamento europeo, che già in prima lettura aveva stravolto la proposta che era stata presentata alla Commissione. Quindi bisogna far tesoro di una consapevolezza che ha preso corpo in questi due anni, devo dire negli ultimi mesi, in modo straordinario. Ieri sera ero a Cosenza con Franco Piperno, con Patti Smith, a parlare di queste cose, e l'altro ieri ero dagli imprenditori a Milano. C'è un mondo straordinario in movimento, ecco. Ecco, vi aspettavate una vittoria così clamorosa, cioè 648 voti contro 14 e 18 astenuti? Forse... se ne diamo una lettura di una votazione così ampia è perché così nessuno ha perso, neanche di quelli a favore, no? Per ipotesi di brevettabilità del software, che è il Parlamento che ha detto ricominciare da capo non va bene così. Io devo essere molto sincero, ci speravo, ma non speravo neanche in questa bocciatura. Io ero arrivato a augurarmi, piedi per terra, che potesse essere approvato un testo con alcuni emendamenti significativi che consentisse di capitalizzare quel blocco sociale di cui parlavo prima in chiave di recepimento nei singoli parlamenti, coordinando le realtà locali, delle nazioni, delle amministrazioni locali. Devo dire, il segno è straordinario, ma ripeto, va gestito immediatamente con una chiave aggressiva spiazzando gli altri, perché se no la Business Software Alliance, le Confindustrie locali che usano i brevetti come asset azionari, cioè detto tra noi bolle speculative per valorizzare i bilanci delle singole imprese, torneranno alla carica. Certo, noi la ringraziamo di essere stata con noi, di sentirci a presto. Grazie a voi. Grazie, salve. Salve. E quindi era il senatore dei Verdi, Fiorello Cortiana, che abbiamo raggiunto al volo, non appena abbiamo appunto visto la notizia che è stata bocciata la direttiva sui brevetti software all'Europarlamento, una cosa che... vedo il sorriso di Marco, penso che... non ci speravamo veramente in questa vittoria, perché sono veramente due anni in cui i colpi di mano e i vari presidenti di turno della Commissione Europea fanno... veramente, come diceva anche Fiorello Cortiana, le porcate tremende per riuscire a portare avanti questa brevettabilità del software in Europa. E quindi una vittoria così netta, vabbè, è bella, però effettivamente le parole di Cortiana sono state, bisogna stare attenti adesso a andare avanti, perché l'industria del software saranno ancora più agguerrite e bisogna proteggersi prima che ritorni una nuova ondata, come diceva. Va bene, dai, una buona notizia, puntata di Cialtroni nello spazio, la facciamo in diretta, la facciamo così, mentre arrivano queste notizie, penso che porti bene, dovremmo farlo più spesso. Ricordiamo, no, in realtà però... l'abbiamo fatta apposta in diretta, perché sapevamo che sapevamo c'era la votazione e che... In effetti sì, direi che, ricordiamo che questa è l'ultima puntata dei Cialtroni nello spazio per prima della pausa estiva. Noi continuiamo a leggere le ultime novità, mi sa che a questo punto non c'è più tempo per presentare il software NVU. Diamo il link comunque, così almeno chi vuole vederselo se lo va a vedere. E allora, spieghiamo brevemente che cos'è, una sorta è di... come front page praticamente, o come Dreamweaver, che insomma serve a disegnare pagine web, pagine senza web. Scrivere con un editor di testo. cosa sconsigliabile, però per i neofiti insomma è un buon modo, è didattico, insomma, diciamo, un modo per iniziare. Esatto. Comunque il sito è www.mozillaitalia.org, oppure se volete andare direttamente al sito di NVU è www.sanavia.it/nvuitalia/. Vai. Comunque andate su mozillaitalia.org che c'è il link diretto. Altre news? Due news per chiudere, sempre sì, due minuti, sul fronte open source. Allora, due notizie buone e una cattiva, diciamo. Allora, la notizia buona è che la città di Vienna ha deciso di sostituire 18.000 macchine desktop Microsoft con una versione di Debian, che è una distribuzione Linux modificata, con un desktop KDE, che è uno dei due maggiori desktop utilizzati assieme a Gnome. E giusto? Gnome. E questa è una buona notizia. L'altra buona notizia è che in Norvegia il ministro per la modernizzazione norvegese ha dichiarato che i formati proprietari non saranno più utilizzati per le comunicazioni tra i cittadini e il governo a qualsiasi livello amministrativo, e che dovranno essere favorite le soluzioni basate sui formati aperti e sui software liberi. Quindi un'altra forte presa di posizione verso l'open source, ma anche non solo, perché comunque non è un discorso solo legato all'open source, perché il ministro fa anche riferimento a Apple. Comunque la questione importante è la questione sui formati. Tra l'altro recentemente appunto è uscito un nuovo formato standardizzato ISO per i documenti, quindi sicuramente si sta andando verso, sta seguendo una buona strada. La notizia cattiva è che invece a Londra, nella città di Londra, hanno deciso di rinnovare il contratto con Microsoft per quanto riguarda il governo londinese. Hanno spuntato un notevolissimo sconto, paventando appunto il passaggio ad un'altra piattaforma. Hanno risparmiato 84 milioni di sterline. Quindi vabbè, la notizia è cattiva, comunque Microsoft ci ha perso un sacco di soldi e comunque si vedrà al prossimo rinnovo nel 2008. Siamo quasi in chiusura di Cialtroni nello spazio, ultima puntata. Ricordiamo il nostro sito, dove troverete tutte le vecchie puntate con le vecchie scalette, i link dei documenti che abbiamo utilizzato e dei gruppi che abbiamo fatto sentire. Ricordiamo che è stata bocciata la direttiva sui brevetti software, lo ricordiamo ancora. Ricordiamo l'indirizzo del sito, che allora, è spazio.circolab.net, lui che non mi ha lasciato finire. E lì troverete anche il modo di mandarci mail, ne rispondiamo anche durante l'estate, quindi mandateci pure richieste, idee per l'anno prossimo. Seguite il sito del Circola www.circola.net, perché a breve riapriremo nel nuovo spazio. Quest'anno non abbiamo presentato il progetto perché era in un momento di ristrutturazione, comunque per l'anno prossimo si rivedrà di ritornare al regime. Comunque se avete navigato il sito avete un po' capito cosa fa il Circola in generale. Abbiamo presentato comunque Numerica, che è una delle attività principali. E a posto, se torna a Zampi Studio, facciamo i saluti. A fare saluti. E mandiamo la sigla. Anch'io voglio salutare tutti. E tutte. No, abbiamo ancora salutato neanche noi. Ma come no? Parto adesso la sigla. Space 1999, main team, Barry Gray, che ci ha tenuto compagnia per tutta questa stagione di spaziali. Sigla di Spazio 1999, mitico telefilm dell'età di Marco, quindi Marco, ma quanti anni hai? Come fai a ricordarti queste cose? Io c'ero. Tu c'eri? Con un po' di rammarico che dico che era l'ultima puntata in effetti per questa stagione. Sì, ma bisogna andare in vacanza, quindi. E poi c'è la festa della radio, lo ricordiamo, dal 12 al 27 agosto. Ma ci sarà il Circo Lab? Che domandona. Non si sa. Domande da non fare in diretta, insomma. Ci risentiamo verso ottobre o giù di lì. Abbiamo resistito per 23 puntate. 23 puntate, incredibile. 23 puntate. Sì, però la sigla sta finendo. La sigla sta finendo. Un saluto da Francesco. Ciao. Buon estate. Ciao a tutti. Ciao.